Il libro di Enoch. Libro 5. Leyes di Enoch. Enoch 91. Ora Matusalemme, figlio mio, chiamami tutti i tuoi fratelli e raduna, per me, tutti i figli di tua madre, poiché la parola mi chiama e lo spirito è scorso su di me, affinché io vi mostri tutto quel che vi giungerà nell'eternità. Ed allora Matusalemme andò a chiamare tutti i suoi fratelli presso di lui e raduò i suoi parenti. E parlò della giustizia a tutti i suoi figli e disse: Ascoltate, figli miei, tutte le parole di vostro padre ed ascoltate, con rettitudine, la voce della mia bocca, poiché io vi esorto e vi dico: Cari miei, amate la rettitudine e procedete in essa, e non avvicinatevi alla rettitudine con due cuori, e non unitevi con quelli con due cuori, ma procedete nella giustizia, figli miei, ed essa vi condurrà per le vie buone, la giustizia vi sarà compagna, poiché io so che l'esistenza della violenza si rinforzerà sulla terra e si compirà un gran castigo sulla terra ed ogni malvagità finirà, sarà tagliata dalle sue radici e tutta la sua costruzione passerà. E si ripeterà, un'altra volta, la malvagità sulla terra e si compirà sulla terra, un'altra volta, ogni azione di malvagità, violenza e peccato. E se crescerà, no, la malvagità, il peccato, la maledizione, la violenza ed ogni azione cattiva, e se crescerà, no, la ribellione, il peccato, e la impurità, vi sarà gran castigo, dal cielo, su tutti costoro ed il Signore Santo uscirà, in rabbia e castigo, per far giustizia sulla terra. In quei giorni la violenza sarà tagliata dalle proprie radici e le radici della violenza, insieme con la fraudolenza, saranno distrutte da sotto il cielo. E tutto sarà dato al fuoco. L'idolo dei pagani e la torre brucerà nel fuoco e li scacceranno da tutta la terra e saranno gettati nella condanna del fuoco e saranno distrutti nell'ira e nella forte condanna, che è eterna. Ed il giusto si sveglierà dal sonno e la sapienza sorgerà e sarà data a loro. Ed allora le radici della malvagità saranno recise e i peccatori periranno di spada, più saranno recisi di fra gli empi più, in ogni luogo. E quelli che meditano la malvagità e quelli che fanno scelleratezze periranno di coltello. E dopo di ciò, sarà un'altra settimana, la ottava, di giustizia. E le sarà data la spada affinché sia fatta giustizia e condanna su quelli che opprimono ed i peccatori saranno consegnati nelle mani dei giusti. E alla fine di essa, settimana, acquisteranno le case a causa della loro giustizia e sarà costruita la casa per il gran re, a gloria, in eterno. E dopo di ciò, nella nona settimana, sarà manifestato a tutto il mondo un giudizio di giustizia e tutte le azioni degli empi usciranno da sopra tutta la terra ed il mondo sarà scritto alla distruzione e tutti gli uomini guarderanno alla via della rettitudine. E dopo di ciò, nella decima settimana in essa vi sono sette parti, vi sarà il giudizio eterno ed esso sarà fatto dagli angeli vigilanti e vi sarà il cielo eterno, grande, che spunterà in mezzo agli angeli. Ed il primo cielo uscirà, passerà ed apparirà un nuovo cielo e tutte le forze del cielo illumineranno il mondo sette volte di più. E dopo di ciò, vi saranno molte settimane, innumerevoli, in eterno, in bontà e giustizia e, da allora, il peccato non sarà più, per l'eternità, menzionato. Ed ora io vi dico, o figli miei, e vi mostro le vie della giustizia ed anche le vie della violenza, e vi mostro un'altra volta ancora, affinché sappiate quel che verrà. Ed ora, ascoltate, figli miei, ed andate sulle vie della giustizia e non su quelle della violenza, poiché quelli che vanno per le vie della malvagità saranno distrutti per sempre. Enoch 92. Libro che è stato scritto da Enoch, scrittore di tutta questa dottrina di sapienza, lodato da tutti gli uomini, giudice, principe di tutta la terra, per tutti i miei figli che dimorano sulla terra e per le generazioni di dopo che operano la rettitudine e la pace. Non si addolori il vostro spirito a causa del tempo, poiché il grande santo ha dato il tempo a tutti. Ed il giusto sorgerà dal sonno, si alzerà e passerà nella via della giustizia e tutta la sua strada e il suo cammino, che è nella bontà e nella clemenza, sono eterni. Egli sarà clemente verso il giusto e gli darà rettitudine eterna e potenza ed egli sarà nella bontà e nella giustizia ed andrà nella luce eterna. Ed il peccato si perderà nella tenebra, per l'eternità, e non si vedrà più, da quel giorno fino all'eternità. Enoch 93. E dopo di ciò, Enoch prese a parlare dai libri. Ed Enoch, a proposito dei figli della giustizia, per gli eletti del mondo e della pianta di giustizia e di rettitudine, disse: vi dico e vi annuncio queste cose, o figli miei, io Enoch, secondo quel che mi è apparso dalla visione del cielo ed ho appreso dalla voce degli angeli santi ed ho compreso dalle tavole del cielo. E prese, allora, Enoch a parlare dai libri e disse: io sono stato generato il settimo, nella prima settimana, mentre la giustizia e la legge tardavano a venire. E vi sarà, dopo di me, nella seconda settimana, gran cattiveria, l'astuzia germinerà e, in essa, vi sarà il primo compimento e, in essa, si salverà l'uomo e, dopo che sarà finito, crescerà l'ingiustizia ed egli farà una legge per i peccatori. E dopo di ciò, nella terza settimana, alla sua fine, sarà scelto l'uomo per la pianta del giudizio di giustizia e, dopo di lui, verrà la pianta di giustizia eterna. E dopo di ciò, nella quarta settimana, alla sua fine, si vedranno visioni di santi e di giusti e sarà fatta la legge ed un recinto per le generazioni future. E dopo di ciò, nella quinta settimana, alla sua fine, sarà costruita, per sempre, la casa della gloria del regno. E dopo di ciò, nella sesta settimana, quelli che sono in essa saranno tutti ciechi e il cuore di tutti sarà dimenticato dalla sapienza e, in essa, ascenderà un uomo e, alla sua fine, la casa del regno arderà nel fuoco e tutta la stirpe della radice eletta sarà dispersa. E dopo di ciò, nella settima settimana, sorgerà una generazione perversa e saranno molte le sue azioni, e tutte le sue azioni saranno perversità. Alla sua fine saranno premiati i giusti scelti dalla pianta di giustizia eterna, quelli cui sarà dato il settuplo della dottrina, più che a ogni sua creatura. Perché chi è, di fra tutti i figli degli uomini, che possa udire la voce del santo e non si agita? Chi è che possa, la sua mente, pensare e chi è che possa osservare tutte le opere del cielo? Chi è che possa conoscere le opere del cielo e possa vederne l'anima o lo spirito e possa parlarne o salire e vedere tutti i loro confini e conoscerli o, almeno, agire come loro? Chi è, di tutti gli uomini, che possa conoscere come è l'ampiezza e la lunghezza della terra e da chi mai è apparsa la dimensione di tutte loro? Oppure vi è, di tutti gli uomini, chi possa conoscere la lunghezza del cielo e com'è la sua altezza e su che esso è fondato e quanto è il numero delle stelle e dove tutte le luci si riposano? Enoch 94. Ed ora vi dico, figli miei, amate la giustizia. Procedete in essa poiché le vie della giustizia bisogna accettarle e le vie della malvagità saranno subito distrutte e diminuiranno. E agli uomini segnati fin dalla nascita saranno manifeste le vie della violenza e della morte ed essi se ne terranno lontani e non le seguiranno. Ed ora io vi dico, o giusti, non andate per la via del male e della violenza né per le vie della morte e non avvicinatevi, affinché non siate distrutti, ad esse. Ma desiderate e scegliete, per voi, la giustizia e la vita eletta e andate per le vie della salvezza, affinché viviate e viviate bene. E voi prenderete, nel pensiero della vostra mente, la mia parola ed essa non si cancelli dal vostro cuore, poiché io so che i peccatori tentano gli uomini affinché facciano cattiva la scienza e so che, per essa, non si troverà posto e che tutte le tentazioni non diminuiranno. Guai a quelli che costruiscono la malvagità e la violenza e che mettono a fondamento l'astuzia, poiché saranno subito abbattuti e non avranno pace. Guai a quelli che costruiscono le loro case nel peccato poiché saranno distrutte fin da tutte le loro fondamenta ed essi cadranno sotto la spada e guai a quelli che posseggono oro e argento. Periranno subito nella condanna. Guai a voi, o ricchi, perché avete fatto affidamento sulla vostra ricchezza e dalla vostra ricchezza vi allontanerete perché non vi siete ricordati dell'Altissimo nel tempo della vostra ricchezza. Voi avete commesso malvagità e frode e siete diventati degni del giorno dello scorrimento del sangue, del giorno della tenebra e di quello del grande giudizio. Io così dico e vi annuncio che colui che vi ha creato vi abbatterà e che non vi sarà misericordia sulla vostra caduta e che il vostro creatore gioirà della vostra distruzione. E i vostri giusti, in quei giorni, saranno oggetto di contumelia per i peccatori e per gli empi. Enoch 95. Chi mi concederà che i miei occhi diventino nuvola di acqua e io pianga su di voi e versi le mie lacrime come nuvola d'acqua e mi riposi dal dolore del mio cuore? Chi vi ha concesso di fare inimicizia e cattiveria? Che vi incolga, a voi, peccatori, la condanna. Non temete, o giusti, i peccatori, poiché Dio poi li porrà nelle vostre mani affinché voi facciate, contro di loro, il giudizio come avrete voluto. Guai a voi che fate anatemi tali che, poi, non li scioglierete e la guarigione sarà lontana da voi a causa dei vostri peccati. Guai a voi che rendete il male al vostro compagno, poiché sarete ripagati secondo le vostre azioni. Guai a voi, testimoni di falsità e guai a quelli che soppesano la malvagità, poiché subito sarete distrutti. Guai a voi, o peccatori, perché voi perseguiterete i giusti, e, perché sarete consegnati e perseguitati, voi, quelli della ingiustizia, e il loro giogo sarà saldo su di voi. Enoch 96. Sperate, o giusti, perché subito i peccatori saranno distrutti davanti a voi e voi avrete potere su di loro, come vorrete. E nel giorno della afflizione dei peccatori, si solleveranno e si alzeranno, come aquile, i vostri figli e più alto di quello dell'avvoltoio sarà il vostro nido e voi salirete ed entrerete nelle caverne della terra e nelle fenditure della roccia, per sempre, come scoiattolo davanti ai malvagi e i vostri figli gemeranno per voi e piangeranno come demoni agresti. E quanto a voi, non temete, voi che siete ammalati, poiché vi sarà per voi il medicamento e la luce luminosa vi illuminerà ed ascolterete dal cielo la parola di quiete. Guai a voi, peccatori, perché la vostra ricchezza vi fa sembrare giusti ma il vostro cuore vi redarguirà, secondo, come siete peccatori e questa parola sarà, contro di voi, testimonianza a ricordo delle cattiverie. Guai a voi che mangiate il grasso del frumento e bevete la forza dell'origine della fonte e calpestate gli umili con la vostra forza. Guai a voi che bevete l'acqua in ogni tempo poiché subito dopo sarete ripagati e sarete condotti alla fine e diventerete aridi poiché avete abbandonato la fonte della vita. Guai a voi che fate ingiustizia, frode e maledizione. Ciò sarà, contro di voi, ricordo di cattiveria. Guai a voi, o forti, che con la forza opprimete il giusto, perché verrà il giorno della vostra distruzione. In quei giorni, nel giorno della vostra condanna, per i giusti verranno molti giorni buoni. Enoch 97. Siate persuasi, o giusti, che i peccatori sono per la maledizione e che periranno nel giorno dell'ingiustizia. Vi è noto che l'Altissimo ricorda la vostra distruzione e che gli angeli gioiscono della vostra distruzione. Che cosa avrete da fare, o peccatori, e dove fuggirete in quel giorno del giudizio, allorché ascolterete la parola della preghiera dei giusti? E voi per i quali, a testimonianza, sarà contro di voi questa parola. Foste soci dei peccatori. Non sarete come loro. In quei giorni la preghiera dei giusti giungerà al Signore e da voi giungerà il giorno del vostro giudizio. E saranno dette tutte le cose della vostra ingiustizia innanzi al grande ed al santo e il vostro volto si vergognerà e tutte le opere fondate sull'ingiustizia saranno respinte. Guai a voi, peccatori, che siete in mezzo al mare e sulla terra, il cui ricordo è cattivo contro di voi. Guai a voi che possedete oro ed argento che non è nella giustizia e che dite «Ci siamo arricchiti. Abbiamo mezzi ed abbiamo acquistato tutto quel che abbiamo voluto. Ora facciamo quel che abbiamo pensato poiché abbiamo raccolto argento ed abbiamo riempito i nostri forzieri e gli agricoltori. Nelle nostre case sono molti, come l'acqua». E la vostra menzogna scorrerà via come l'acqua, poiché non vi è, per voi, ricchezza ma essa sale subito, lontana, da voi perché avete acquistato tutto con ingiustizia e voi siete destinati alla grande maledizione. Enoch 98. Ed ora io vi giuro, savi e pazzi, che vedrete molte cose sulla terra. Che voi, uomini, porrete su di voi ornamenti più delle donne e vesti di colore più delle vergini nella regalità, nella grandezza, nella potenza e nell'argento e che l'oro, la porpora, la gloria e i cibi scorreranno come l'acqua. Che, per questo, essi non avranno dottrina e sapienza e, per questo, perirranno insieme coi loro beni, con tutta la loro gloria e col loro onore, e il loro spirito, in maledizione, in uccisione e grande povertà, sarà gettato nella fornace di fuoco. Vi ho giurato, o peccatori, che come un monte non divenne né diverrà servo, né una collina è diventata né diverrà serva di una donna, così il peccato non fu mandato sulla terra, ma sono gli uomini che lo hanno creato da se stessi e quelli che lo hanno fatto sono destinati alla grande maledizione. E alla donna non fu data la sterilità ma, per le azioni delle sue mani, ella muore senza figli. Vi ho giurato, o peccatori, per il santo e grande, che tutte le vostre azioni malvagie sono manifeste nei cieli e che non vi è, per voi, alcuna azione di violenza che resti coperta, né nascosta. E non crediate, nel vostro spirito, e non dite, nel vostro cuore, che non saprete e non vedrete tutti i peccati. Essi, nel cielo, sono scritti ogni giorno innanzi all'Altissimo. Sappiate, fin da oggi, che ogni violenza che commettete è scritta ogni giorno, fino al giorno del vostro giudizio. Guai a voi, o folli, poiché perirete nella vostra follia, non ascolterete i savii ed il bene non vi incontrerà. Ed anche oggi sappiate che siete pronti per il giorno della distruzione e non sperate che vivrete, o peccatori. Ma, invece, andrete e morirete perché non conoscete redenzione, dato che siete degni del giorno del grande giudizio e del giorno dell'afflizione e della grande vergogna per il vostro spirito. Guai a voi, duri di cuore, che fate il male e mangiate il sangue. Da dove voi mangiate bene, bevete e vi saziate? Poiché vi saziate da tutto il bene che il nostro Signore Celso ha elargito abbondantemente sulla terra, per voi non vi sarà pace. Guai a voi che amate le azioni di oppressione. Perché, allora, sperate per voi il bene? Sappiate che sarete dati nelle mani dei giusti e che, costoro, taglieranno i vostri colli, vi uccideranno e non avranno pietà di voi. Guai a voi che gioite delle calamità dei giusti perché, per voi, non sarà scavato il sepolcro. Guai a voi che rendete vane le parole dei giusti poiché non vi sarà, per voi, speranza di vita. Guai a voi che scrivete parole di menzogna e di impietà, poiché essi scrivono la loro menzogna affinché altri ascoltino e non dimentichino la follia e per essi non vi sarà pace, ma moriranno di subitanea morte. Enoch 99. Guai a voi che commettete impietà e che onorate e glorificate le parole di menzogna. Siete morti e non avete bella vita. Guai a voi che mutate le parole di rettitudine e guai a coloro che violeranno la legge eterna e faranno se stessi che non lo erano peccatori sulla terra. Saranno calpestati. In quei giorni preparatevi, o giusti, ad innalzare le vostre preghiere in ricordo e le avrete poste come testimonianza davanti agli angeli, affinché pongano il peccato dei peccatori, per ricordo, innanzi all'Altissimo. In quei giorni i popoli si agiteranno e le varie specie di popoli saranno portate via nel giorno della distruzione. E in quei giorni, coloro che sono gravide usciranno e prenderanno i loro figli, li abbandoneranno e i loro figli nasceranno prematuramente. Mentre essi popperanno, li abbandoneranno e non torneranno da loro e non avranno misericordia verso i loro cari. Inoltre io vi giuro, o peccatori, che il peccato è stato preparato per il giorno del sangue che non si ferma. E si prostreranno alle pietre e quelli che scolpiscono statue d'oro, d'argento, di legno, di creta e quelli che si prostrano agli spiriti immondi, ai diavoli e a tutti gli idoli e nei templi degli idoli e, da loro, non si otterrà alcun aiuto, diventeranno empi per la pazzia del loro cuore e i loro occhi si accecheranno per la paura del loro cuore e per le visioni dei loro sogni. A causa di queste cose, diverranno empi e temeranno poiché avranno fatto ogni loro azione nella menzogna e si saranno prostrati alle pietre e saranno distrutti in un attimo. E in quei giorni, beati tutti quelli che riceveranno la parola di sapienza e la conosceranno e che percorreranno le vie dell'Altissimo e andranno per la via della giustizia e non saranno empi insieme con quelli che sono empi, poiché essi si salveranno. Guai a voi che estendete il male al vostro compagno, poiché sarete distrutti nell'inferno. Guai a voi che fate la base del peccato e della frode e guai a quelli che amareggiano la terra, poiché, perciò, essi saranno consumati. Guai a voi che costruite le vostre case con l'afflizione degli altri e il cui materiale di costruzione è laterizi e pietre di peccato. Io vi dico che non avrete pace. Guai a quelli che ripudiano la misura e l'eredità eterna dei loro padri e mettono la loro anima al seguito dell'idolo poiché, per essi, non ci sarà riposo. Guai, fino al giorno del grande giudizio, a quelli che fanno iniquità e difendono la violenza ed uccidono il loro amico, poiché egli farà cadere la vostra gloria e porrà il male nel vostro cuore e solleverà lo spirito della sua ira per farvi tutti perire di spada. E tutti i giusti e i santi ricorderanno il vostro peccato. Enoch 100. E in quei giorni, in un sol luogo, i padri si percuoteranno coi loro figli e fratelli, insieme coi loro fratelli, cadranno nella morte finché, dal loro sangue, scorrerà come un fiume poiché l'uomo non tratterrà, misericordiosamente, la mano dal figlio e dal figlio del figlio per ucciderlo ed il peccatore non tratterrà la sua mano dal proprio fratello onorato. Ed essi si uccideranno dall'alba fino al sole che tramonta. Ed il cavallo procederà, fino al suo petto, nel sangue dei peccatori e il carro, fino alla sua parte superiore, affonderà nel sangue. E in quei giorni gli angeli scenderanno in luoghi nascosti e faranno entrare in un solo luogo tutti quelli che favoriscono il peccato e, in quel giorno, l'Altissimo sorgerà per far giustizia di tutti i peccatori. E darà a tutti i giusti ed ai santi dei guardiani, scelti di fra gli angeli, che li custodiranno come pupille degli occhi fin quando tutta la cattiveria e tutti i peccati saranno portati alla fine ed i santi, anche se dormiranno un lungo sonno, non avranno nulla da temere. E gli uomini saggi vedranno la verità e i figli della terra comprenderanno tutte le parole di questo libro e sapranno che la loro ricchezza non potrà salvarli nella rovina del loro peccato. Guai a voi, peccatori, Quando affliggerete i giusti nel giorno della grave afflizione, li brucerete nel fuoco e sarete ricompensati secondo le vostre azioni. Guai a voi, perversi di cuore, che siete intenti a pensare al male. Vi coglierà il terrore e non vi sarà chi vi aiuti. Guai a voi, peccatori, perché a causa delle parole della vostra bocca e delle azioni delle vostre maniche, necessariamente, avete dimenticate, arderete nel calore delle fiamme di fuoco. Ed ora sappiate che gli angeli in cielo, a causa dei vostri peccati, investigheranno dal sole, dalla luna e dalle stelle le vostre azioni, poiché sulla terra voi fate giustizia presso i giusti. E farà testimoniare contro di voi tutte le nuvole, la nebbia, la rugiada e la pioggia. Diranno che sono tutte impedite da voi stessi, dal discendere su di voi e che non pensano di discendere a causa del vostro peccato. Ed ora offrite doni alla pioggia affinché non sia impedita dal discendere su di voi e alla rugiada, se essa riceve da voi oro e argento. Quando su di voi scenderà la neve, ed il loro gelo e scenderanno tutti i venti della brina e tutti i loro tormenti, allora non potrete resistere innanzi a loro. Enoch 101. Guardate tutti voi, figli del cielo, il cielo e tutte le opere dell'Altissimo, abbiate paura di Lui e non fate il male al suo cospetto. Se Egli chiude la finestra del cielo ed impedisce alla pioggia e alla rugiada di scendere, per causa vostra, sulla terra, come farete? E se Egli manda la sua ira contro di voi e contro tutte le vostre azioni, non sarete voi ad implorarlo perché direte, contro la sua giustizia, parole grandi e forti e non avrete pace? E non vedete i comandanti di navi? In qual modo le loro navi sono agitate dalle onde e sono scosse dai venti e sono in pericolo? Perciò essi temono che tutti i loro beni cadranno nel mare insieme con loro ed essi, nel loro cuore, non pensano cose belle, perché il mare li inghiottisce e periscono con essa. Non è forse tutto il mare, e tutte le sue acque e le sue agitazioni, opera dell'Altissimo e non ha forse egli sigillato tutte le sue opere e non lo ha tutto astretto con la sabbia? E al suo rimprovero, esso si prosciuga i teme e tutti i suoi pesci e tutto quel che in esso muoiono? E voi, peccatori, che siete sulla terra, non lo temete? Non ha forse fatto, lui, tutto il cielo, la terra e tutto quel che vi è dentro? E chi ha dato la dottrina e la scienza a tutti quelli che si muovono sulla terra e nel mare? Non temono, forse, i capitani di navi il mare? Ed i peccatori, invece, non temono l'Altissimo. Enoch 102. E se in quei giorni egli getterà su di voi il fuoco veemente, dove fuggirete e dove vi salverete? E quando egli lancerà la sua parola contro di voi, non sarete voi atterriti e non temerete. Tutte le luci si agiteranno per la gran paura e tutta la terra sarà atterrita, tremerà e trepiderà. E tutti gli angeli eseguiranno i loro compiti e vorranno nascondersi davanti al grande di gloria e tremeranno e si agiteranno i figli della terra e voi, peccatori, sarete maledetti nell'eternità e non avrete pace. Voi, anime dei giusti, non abbiate paura, ma sperate nel giorno della vostra morte nella giustizia. E non addoloratevi perché la vostra anima è scesa, con sofferenza, agli inferi nella grande afflizione, in grida di dolore e gemiti, e perché il vostro corpo non ha ricevuto, nella vostra vita, secondo la vostra bontà, ma addoloratevi, invece, nel giorno in cui diveniste peccatori e nel giorno, quindi, della maledizione e del castigo. E quando morrete, i peccatori diranno di voi: i giusti sono morti come siamo morti noi. Qual è il loro vantaggio derivante dalle loro azioni? Ecco, sono morti, come noi, nel dolore e nella tenebra in che, essi, sono migliori di noi? Ormai siamo eguali. E che cosa essi prenderanno e che cosa vedranno in futuro dato che anche essi, ecco, sono morti e, da ora in poi, non vedranno la luce? Io vi dico, o peccatori, vi è stato sufficiente il mangiare, il bere, il denudare la gente, il rapire, il peccato, il possesso dei beni e la visione dei bei giorni. Avete visto i giusti, in qual modo è la loro fine, in pace, dato che, fino al giorno della loro morte, non si è trovato in loro alcun sopruso? E le loro anime sono morte, sono diventate come se non fossero mai esistite e sono scese agli inferi, in afflizione. Enoch 103. Ed ora io vi giuro, o santi, sulla sua grande gloria ed onore, sul suo regno onorato e sulla sua grandezza, io vi giuro, che io conosco questo mistero e lo ho letto sulle tavole del cielo ed ho visto la scrittura dei santi e vi ho trovato scritto ed impresso, a loro proposito, che tutto il bello, la gioia e l'onore spetta a loro e che è stato scritto per gli spiriti di coloro che sono morti in giustizia e in gran bene. Vi sarà dato l'equivalente della vostra fatica, e la vostra parte sarà maggiore di quella dei vivi. E vivrà lo spirito di voi che siete morti in giustizia e si rallegreranno e saranno lieti i loro spiriti ed il loro ricordo resterà davanti al volto del grande per tutte le generazioni del mondo. Ed ora non abbiate paura della loro ignominia. Guai a voi, peccatori, quando morrete nel vostro peccato e quando quelli che sono come voi diranno, a vostro proposito: sono beati, i peccatori, hanno visto tutti i loro giorni. Adesso sono morti bene e in ricchezza, e non han visto guerre e pericoli durante la loro vita. Sono morti in gloria e, durante la loro vita, non è stato fatto, per essi, alcun giudizio. Sapete che si faranno scendere le loro anime agli inferi e che esse diverranno misere e la loro afflizione sarà grande? E che il vostro spirito, in tenebra, in rete e fiamma ardente entrerà nella grande condanna e che la grande condanna sarà per tutte le generazioni in eterno. Guai a voi, perché non avrete pace. Non dite ai giusti e ai buoni che stanno in vita: nel tempo della nostra afflizione ci siamo affaticati, abbiamo visto ogni afflizione ed abbiamo trovato molte cose cattive e siamo finiti e diventati pochi, e il nostro spirito si è rimpicciolito. E siamo morti e non vi era chi ci aiutasse, sia con parole che con opere. Siamo diventati incapaci e non abbiamo ottenuto alcunché e siamo stati afflitti e siamo morti e non abbiamo sperato di vedere la vita di giorno in giorno. Sperammo di diventare capi e divenimmo code. Ci affaticammo nel lavorare e non avemmo potestà sulla nostra fatica e divenimmo cibo per i peccatori e gli iniqui imposero su noi il loro giogo. Ed ebbero potere su di noi quelli che ci odiavano e che si ferivano e noi piegammo il nostro collo a coloro che ci odiavano ed essi non ebbero misericordia per noi. E volemmo andarcene da loro per fuggire e riposarci e non trovammo dove fuggire e salvarci da loro. E noi li accusammo ai principi, nella nostra afflizione e gridammo contro quelli che ci divoravano, ma essi non badavano al nostro grido e non vollero ascoltare la nostra voce. E portavano aiuto a quelli che ci rapinavano e ci mangiavano e a quelli che ci ridussero a pochi e nascondevano la loro oppressione e non rimuovevano, da noi, il loro giogo ma, invece, ci mangiavano, ci disperdevano, ci uccidevano e nascondevano la nostra uccisione e non si ricordavano che avevano alzato le loro mani su di noi. Enoch 104. Vi giuro, giusti, che nel cielo gli angeli si ricorderanno di voi, a fin di bene, al cospetto della grande gloria. I vostri nomi saranno scritti avanti alla gloria del grande. Sperate, perché prima eravate nella vostra vergogna, nella cattiveria e nell'afflizione ed ora, invece, splendete come le luci del cielo, vi si vede e le porte del cielo vi si aprono. Gridate il vostro grido di giustizia. E vi apparirà chiaro che si chiederà conto di tutte le vostre tribolazioni ai principi e a coloro che hanno aiutato quelli che vi rapinavano. Sperate e non abbandonate le vostre speranze perché a voi sarà gran gioia come angeli del cielo. Che avete da fare? Non avete da dovervi nascondere nel giorno del grande giudizio e non sarete trovati peccatori e la condanna eterna sarà lontana da voi per tutte le generazioni del mondo. Ed ora non temete, o giusti, quando vedrete i peccatori rinforzarsi e vivere beatamente nelle loro delizie e non associatevi a loro, ma allontanatevi dalla violenza, poiché voi avete da essere partecipi dell'esercito del cielo. Infatti voi, peccatori, dite: non investigate. Tutti i nostri peccati non vengono scritti. Invece, i vostri peccati, ogni giorno, li si registrano. Adesso io vi dimostro che la luce e la tenebra, il giorno e la notte, vedono tutti i vostri peccati. Non dimenticatevi di ciò nel vostro cuore, non negate e non pervertite le parole di rettitudine. Non accusate di mendacio la parola del Santo e del Grande e non adorate i vostri idoli, perché tutta la vostra menzogna e la vostra empietà non è fatta per la giustizia, ma per il grande peccato. Ed ora io conosco tutto questo segreto, che, cioè, molti peccatori pervertono e violano la parola di rettitudine e si dicono, fra loro, parole cattive e mentiscono e, sulle loro parole, creano grandi cose e scrivono libri. E che quando, invece, scrivono esattamente, nelle loro lingue, tutte le mie parole e non modificano e non sottraggono nulla dalle mie parole, ma scrivono tutto con esattezza, tutto quel che prima io ho testimoniato a loro proposito, allora io conosco un altro segreto. Che ai giusti e ai saggi i libri son dati per la gioia, la rettitudine e la grande saggezza. E ad essi saranno dati i libri. Ed essi avranno fiducia in essi e si rallegreranno per essi e tutti i giusti che avranno appreso da essi tutte le vie della rettitudine, saranno ricompensati. Enoch 105. 1. In quei giorni il Signore disse ai giusti di chiamare e di testimoniare sulla loro saggezza ai figli della terra. Mostrate loro che voi siete la loro guida e le ricompense che avrete su tutta la terra, poiché io e mio figlio ci uniremo con loro, per sempre, sulla via della rettitudine durante la loro vita. E la pace sarà con voi. Gioite, figli della rettitudine, per davvero. Enoch Slavo 49. Poiché io vi giuro, o miei figli, che prima ancora ci e l'uomo fosse, è stato preparato per lui un luogo di giudizio e che la bilancia e il peso secondo il quale l'uomo sarà esaminato, sono stati là preparati in anticipo. Enoch Slavo 50. Io metterò per iscritto l'opera di ogni uomo e nessuno può sottrarvisi. Ora dunque, figli miei, trascorrete nella pazienza e nella dolcezza il numero dei vostri giorni, affinché ereditiate il secolo futuro un bis senza fine. Ogni colpo e ogni ferita e bruciatura e ogni parola cattiva se vi vengono addosso a causa del Signore, sopportateli, e pur potendo darli in restituzione, non restituiteli al prossimo, perché il Signore che restituisce ed egli vi sarà di vendicatore nel giorno del grande giudizio. Perdete l'oro e l'argento per il vostro fratello, per ricevere un tesoro pieno nel giorno del giudizio. All'orfano e alla vedova tendete le vostre mani e secondo le vostre forze aiutate il misero ed essi si troveranno come riparo al tempo della prova. Enoch Slavo 51. Ogni giogo triste e pesante, se viene su di voi a causa del Signore, sopportatelo e così troverete la vostra mercede nel giorno del giudizio. Al mattino e a mezzogiorno e alla sera del giorno è buona cosa andare nella casa del Signore a glorificare il Creatore di tutte le cose. Enoch Slavo 52. Beato chi apre il suo cuore alle lodi e loda il Signore. Maledetto chi apre il suo cuore all'insulto e alle calunnie contro il prossimo. Beato chi apre la sua bocca, benedicendo e glorificando il Signore. Maledetto chi apre la sua bocca per la maledizione e la bestemmia al volto del Signore. Beato chi glorifica tutte le opere del Signore. Maledetto chi insulta la creazione del Signore. Beato chi considera le fatiche delle sue mani per innalzarle. Maledetto chi mira a cancellare le fatiche degli altri. Beato chi conserva i fondamenti degli antichi padri. Maledetto chi distrugge le regole e i limiti dei suoi padri. Benedetto chi pianta la pace. Maledetto chi abbatte coloro che sono in pace. Benedetto chi dice: pace e che ha la pace. Maledetto chi dice: pace, non c'è pace nel suo cuore. Tutto questo si svelerà sulla bilancia e nei libri nel giorno del giudizio terribile. Enoch Slavo 53. Ora dunque, o miei figli, preservate i vostri cuori da ogni ingiustizia. Sulla bilancia ereditate la luce nei secoli. Non direte, miei figli, nostro Padre è con il Signore e intercederà per noi per il nostro peccato. Vedete che tutte le opere di ogni uomo io le scrivo e nessuno può distruggere lo scritto della mia mano, perché il Signore vede tutto. Ora dunque, miei figli, prestate orecchio a tutte le parole di vostro Padre, a tutto quello che io vi dico. Enoch Slavo 54. Affinché vi siano in eredità di riposo. E i libri che vi ho dato, non nascondeteli, ma spiegateli a tutti quelli che lo vogliono, per vedere se riconosceranno le opere del Signore. Enoch Slavo 55. Poiché, ecco figli miei, si avvicina il giorno del termine e il tempo fissato, mi costringe gli angeli che vanno con me stanno davanti al mio volto e io domani salirò al cielo più alto, mia eredità eterna. Per questo vi comando, miei figli, di fare ogni buona volontà davanti al volto del Signore. Enoch Slavo 56. Matusalemme rispose a suo padre Enoch, che cosa ha gradito ai tuoi occhi, padre, che prepariamo cibi davanti al tuo volto, affinché tu benedica le nostre case e i tuoi figli e tutta la gente della tua casa? Tu glorificherai il tuo popolo e così poi partirai. Enoch rispose a suo figlio e disse, ascolta, figlio, da quando il Signore mi ha unto dell'olio della sua gloria, non c'è stato cibo in me, né il cibo m'è gradito, né ho voglia di cibo terrestre. Enoch Slavo 57. Ma chiama i tuoi fratelli e tutta la gente della nostra casa e gli anziani del popolo, affinché io parli con loro e parta. Matusalemme si affrettò e chiamò i suoi fratelli Regim e Arim e Akajucan e Sharimion e tutti gli anziani del popolo e li condusse davanti al volto di suo padre Enoch e si inchinarono a lui. Enoch li accolse e li benedisse e rispose loro dicendo Enoch Slavo 58. Ascoltate, o figli. Ai giorni di vostro padre Adamo, il Signore scese sulla terra a visitare essa e tutta la sua creazione che egli stesso aveva creato. Il Signore chiamò tutti gli animali della terra e ogni rettile della terra e tutti gli uccelli alati e li condusse davanti al volto di vostro padre Adamo, affinché desse nomi a tutti sulla terra. Il Signore li lasciò accanto a lui e sottomise a lui tutto come inferiore, al secondo posto, avendolo reso sordo per tutta sottomissione e obbedienza all'uomo. Poiché egli ha fatto l'uomo signore di tutti i suoi possedimenti. Su di loro non vi sarà giudizio per ogni anima vivente, ma per l'uomo solo. Per tutte le anime degli animali nel grande secolo c'è un solo posto e un solo recinto e un solo pascolo. Poiché l'anima degli animali che il Signore ha creato non sarà richiusa fino al giudizio e tutte le anime accusano l'uomo. Chi pascola male l'anima degli animali commette iniquità verso la propria anima. Enoch Slavo 59. Ma chi conduce un sacrificio di animali puri, è guarigione, egli guarisce la sua anima e chi porta un sacrificio di uccelli puri, è guarigione, guarisce la sua anima. Tutto ciò che voi avete per cibo, legatelo per le quattro zampe, è guarigione, egli guarisce la sua anima. Chi mette a morte ogni animale senza legarlo, è cattivo costume, commette iniquità verso la sua anima. Chi fa del male a un animale in segreto, è cattivo costume, egli commette iniquità verso la sua anima. Enoch Slavo 60. Chi fa del male a un'anima umana fa male alla sua anima e non c'è per lui guarigione nei secoli. Chi commette un'uccisione mette a morte la sua anima e non c'è per lui guarigione nei secoli. Chi spinge un uomo nella rete ci resta impigliato lui stesso. Non c'è per lui guarigione nei secoli e chi spinge un uomo in giudizio, il suo giudizio non verrà meno nei secoli. Enoch Slavo 61. Ora dunque, o figli miei, astenete il vostro cuore da ogni ingiustizia che il Signore ha in orrore e più ancora da ogni anima vivente, quante ne ha create il Signore. Ciò che un uomo domanda al Signore per la sua anima, così lo faccia per ogni anima viva. Perché nel grande secolo molti rifugi sono preparati per l'uomo, dimore molto buone, dimore cattive senza numero. Beato chi va nelle case benedette, poiché nelle cattive non c'è soggiorno. Un uomo, quando mette una parola nel suo cuore di portare un dono davanti al volto del Signore e le sue mani non lo fanno, allora il Signore respinge il lavoro delle sue mani ed egli non ottiene nulla. Se le sue mani lo fanno il suo cuore mormora e non cessa la sofferenza del suo cuore, la sua mormorazione è senza frutto. Enoch Slavo 62. Beato l'uomo che nella sua pazienza porta un dono davanti al volto del Signore, perché troverà ricompensa. Un uomo quando con la sua bocca fissa un termine per portare un dono davanti al volto del Signore e lo fa, allora troverà ricompensa. Ma se adempie la sua parola dopo aver passato il tempo fissato, il suo pentimento non è gradito perché ogni ritardo fa scandalo. Enoch Slavo 63. Un uomo quando copre chi è nudo e dà pane all'affamato troverà ricompensa, ma se il suo cuore mormora allora egli fa una perdita e non ci sarà remunerazione. Quando il povero è sazio e il suo cuore è sprezzante, allora perde tutta la sua opera buona e non otterrà nulla, perché il Signore detesta ogni uomo sprezzante. Enoch Slavo 64. Accadde che quando Enoch ebbe parlato ai suoi figli e ai principi del popolo, tutto il suo popolo e tutti i suoi vicini udirono che il Signore chiamava Enoch. Si consultarono tutti dicendo, andiamo e salutiamo Enoch. Si radunarono fino a 2000 uomini e vennero fino al luogo Adjucan dove c'erano Enoch e i suoi figli e gli anziani del popolo. Salutarono Enoch, dicendo, tu, benedetto, davanti al Signore Re Eterno, benedici ora il tuo popolo e glorificaci, davanti, al volto del Signore, perché il Signore ti ha scelto per porti, come, colui che toglie i nostri peccati. Enoch rispose al suo popolo, dicendo. Enoch Slavo 65. Ascoltate, miei figli. Prima che tutte le cose fossero, prima che avesse luogo tutta la creazione, il Signore stabilì il secolo della creazione e dopo questo fece tutta la sua creazione visibile e invisibile e dopo tutto ciò creò l'uomo secondo la sua immagine e mise in lui gli occhi per vedere e le orecchie per udire e il cuore per pensare e la ragione per consigliare. Allora il Signore liberò il secolo a causa dell'uomo e lo divise in tempi e in ore, perché l'uomo mediti i cambiamenti dei tempi e la loro fine, l'inizio e la fine degli anni e dei mesi e dei giorni e delle ore e perché calcoli la morte della sua vita. Quando avrà fine tutta la creazione che il Signore ha creato e ogni uomo andrà al grande giudizio del Signore, allora i tempi periranno e non ci saranno più anni, né mesi né Giorni e le ore non saranno più contate, ma sorgerà un solo secolo. Tutti i giusti che sfuggiranno al grande giudizio del Signore si uniranno al grande secolo e il secolo insieme si unirà ai giusti e saranno eterni. In essi non ci sarà più fatica né, dolore né, afflizione né, attesa di violenza né, pena né, notte né, tenebra, ma avranno una grande luce per l'eternità e un muro indistruttibile e avranno un grande paradiso, riparo di un soggiorno eterno. Beati i giusti che sfuggiranno al grande giudizio del Signore, perché i loro volti risplenderanno come il sole. Enoch Slavo 66. Or dunque, miei figli, preservate le vostre anime da ogni ingiustizia, da tutto ciò che il Signore ha odiato. Camminate davanti al volto del Signore e servite Lui solo e portate ogni offerta davanti al volto del Signore. Poiché se levate lo sguardo al cielo, là c'è il Signore, poiché il Signore ha creato i cieli. Se posate lo sguardo sulla terra e sul mare e pensate alle cose sotterranee, anche là c'è il Signore, perché il Signore ha creato tutte le cose. Nessuna azione sarà nascosta al volto del Signore. Nella pazienza, nella dolcezza e nell'afflizione delle vostre tribolazioni, uscite da questo secolo di sofferenza. Dopo il riassunto della metafisica enochica quello della morale. Enoch Slavo 67. Mentre Enoch conversava col suo popolo, il Signore mandò tenebre sulla terra e ci fu oscurità e l'oscurità coprì gli uomini che stavano con Enoch. Gli angeli si affrettarono e gli angeli presero Enoch e lo innalzarono nel cielo più alto e il Signore l'accolse e lo pose davanti al suo volto nei secoli. L'oscurità si allontanò dalla terra e ci fu luce e il popolo vide e comprese in che modo Enoch era stato preso e glorificarono Dio e andarono nelle loro case. Enoch Slavo 68. Matusalemme e i suoi fratelli, i figli di Enoch, si affrettarono e costruirono un altare nel luogo a Giucan di dove Enoch era stato preso e presero montoni e buoi e li sacrificarono, davanti, al volto del Signore. Chiamarono tutto il popolo che era venuto con loro alla letizia e il popolo portò doni ai figli di Enoch e fecero letizia e gioia per 3 giorni.